Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, settembre andiamo, è tempo di migrare. Così iniziava i pastori Gabriele D'Annunzio. Ebbene, anche noi andiamo e diciamo scendiamo verso il mare, scendiamo verso queste bellissime terre d'Abruzzo che offrono tutto: mare, montagna, collina. E soprattutto chi magari passasse nelle strade dei trabocchi vede qualcosa di incredibile, vede queste lingue lunghe sul mare che sempre il grande D'Annunzio aveva così nominato. La grande macchina pescatoria, simile allo scheletro colossale di un anfibio antidiluviano. Quindi pensate un po', ecco, quando le vedete, secondo me questa definizione calza perfettamente. Come dicevo, un itinerario in Abruzzo che faremo ora è veramente interessante dal punto di vista paesaggistico, interessante dal punto di vista turistico, interessante dal punto di vista gastronomico, l'aspetto sul quale ci baseremo di più. Bene, io voglio cominciare questo viaggio con un Virgilio, in questo caso, e con Raffaele Cavallo, che è governatore dell'Abruzzo, anzi presidente Abruzzo Slow Food. Buongiorno Raffaele. Buongiorno a te Davide. Ecco, e agli ascoltatori ovviamente. Grazie. Io la prima domanda che faccio, voglio fare con te questo viaggio. Se io ti chiedessi, vengo fra qualche giorno e voglio così conoscere meglio l'Abruzzo, dove mi porteresti? Chiederei quanto tempo hai a disposizione, perché questa regione è sconosciuta e più, invece ha bisogno di tempo per essere scoperta, partendo dalla costa per entrare verso l'entroterra, perché noi abbiamo 140 km di costa e quella più bella è sicuramente quella che tu citavi all'inizio, dove sono i trabocchi citati da D'Annunzio. Ma poi si entra verso l'entroterra, dove incrociamo gli altipiani, ma soprattutto incrociamo le colline che portano su verso la Maiella che per noi è la montagna madre, che comunque è fisicamente all'interno di tre province, perché abbraccia le province di Chieti, Pescara e L'Aquila, fino ad arrivare chiaramente poi al massiccio del Gran Sasso. In questi chilometri ci sono evidentemente territori da scoprire, ma c'è di tutto, dal mare, quindi dalla pesca, ai vigneti che in questi giorni danno il meglio di sé perché siamo in piena vendemmia, fino poi chiaramente ad arrivare alle alte quote dove storicamente c'era questa grande presenza dei pastori abruzzesi. Ecco citati. I pastori citati appunto da D'Annunzio. Ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi. Che vanno verso il mare. E cosa lasciano? Cioè cosa ci danno questi casari abruzzesi? I casari abruzzesi ancora oggi danno splendidi pecorini. Ne cito due in assoluto, che sono il canestrato di Castel del Monte e il pecorino di Farindola. Ecco, dopo li approfondiremo appunto, sì, con due casari. E poi ancora? E poi ancora oggi danno, faccio un breve excursus, intanto questa terra aveva storicamente oltre 1 milione di pecore presenti su questi territori, oggi la presenza chiaramente si è ridotta di molto. Questa era la seconda regione d'Italia dopo la Sardegna per presenza di ovini, che chiaramente quando cominciava a far freddo migravano sulle rotte della transumanza, partivano dalle quote per dirigersi verso le Puglie, verso Foggia, dove sostavano nei mesi invernali, per poi tornare chiaramente a primavera, andare a pascolare in quota. Se storicamente i pastori hanno prodotto da sempre pecorini a lunga conservazione, perché era l'unico modo per garantirsi insomma una qualche forma di sussistenza, lasciando i pecorini a maturare nelle grotte lungo la transumanza, le strade della transumanza, oggi ce ne sono alcuni di pastori che invece hanno abbracciato diciamo tecniche non innovative, tecniche che in altre parti d'Italia, penso soprattutto alle Alpi, fanno sì che si possano ottenere dei formaggi sempre di pecora a pasta molle. Pensate ai tanti formaggi insomma che si producono in Piemonte, e con quelle stesse tecniche qui anche oggi si cominciano a fare formaggi a pasta molle. Ne cito uno per tutti, che è il Gregoriano, che prende il nome da Gregorio Rotolo, che è a Scanno, ma fino a formaggi prodotti a Rivisondoli da Giovanni del Giudice, che sono Sporinati e non, fatti con tecniche, ripeto, molto... Ci hai già dato ma che comunque hanno importato le esperienze da altre parti d'Italia. Ci hai già dato moltissimi appunti di viaggio, Raffaele, ci hai già dato moltissimi appunti di viaggio, spero che i nostri radioascoltatori li abbiano presi. Comunque rimani ancora un secondo con noi, perché hai parlato di vendemmia e il periodo della vendemmia è l'Abruzzo, in questo momento veramente è un po' la ribalta negli ultimi anni con i suoi splendidi vini. E beh, una delle punte avanzate appunto alla cantina Masciarelli. Buongiorno Marina Svetic. Buongiorno, sono Marina e saluto carissimo amico Raffaele Cavallo. Marina, come sta andando la vendemmia? Sta andando molto bene, c'è un'annata, incrociamo le dita, anche perché non si può sempre decidere quando la natura ancora, il corso deve terminare, abbiamo ancora un mese, quindi essendo un vitigno tardivo come Montepulciano lo dobbiamo accompagnare e dobbiamo imparare a ascoltarlo. Abbiamo terminato con il Trebbiano, abbiamo fatto dei rosati meravigliosi e abbiamo anche finito il Merlot. Ancora dobbiamo cominciare con Trebbiano Riserva Marina Svetic, quindi diciamo siamo in piena vendemmia, siamo molto molto... Ecco, Marina, si può venire a vendemmiare nella sua azienda? Da tanti anni noi accompagniamo anche i turisti attraverso Castello di Seminicoli, diamo possibilità di partecipare, gioire con la vendemmia, con Masciarelli, dando una possibilità anche a tanti stranieri che parlano in tedesco, in spagnolo, in inglese, e fare una merenda in vigna con i nostri collaboratori, i nostri dipendenti, e partecipare alla raccolta. Bene, chi volesse farlo può andare sul vostro sito, immagino. Sì, si può anche, organizziamo diversi weekend e attraverso il sito si può informare. Bene, grazie a Marina Svetic. Torno un secondo a Raffaele. Raffaele, abbiamo parlato per ora di questo viaggio, ma in questo viaggio dacci due segnalazioni di ristoranti. Non darmi Nico Romito e non darmi Tinari, perché le andrò a trovare io poi il seguito del viaggio. Dammi due alternative. Due bellissime alternative, uno sul mare e uno sull'interno. Sul mare mi fermerei a Roseto degli Abruzzi, a Vecchia Marina, io credo una delle migliori osterie di pesce non solo della regione Abruzzo ma dell'intero tratto di costa adriatica, dove Gennaro D'Ignazio con la sua famiglia vi farà assaggiare il meglio del pescato dell'Adriatico, cotto in modo soave senza grande alterazione della materia prima. Poi mi sposterei all'interno andando verso Fena, dove c'è Sapori di Campagna della famiglia di Battista. Vi lavorano tutta la famiglia con la mamma in cucina, il papà nei campi, i figli tra sala e cucina, e farete una splendida esperienza chiaramente con pecorini e ovviamente agnello. Ma veramente un appuntamento da non mancare. Bene, grazie Raffaele Cavallo, ci hai già accompagnato, ci hai introdotto, ora andiamo a approfondire tutti, diciamo, questi segnali che ci hai dato sui prodotti, sui ristoranti, sul vino. Grazie e a presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, settembre andiamo, è tempo di migrare. Bene, si capisce subito che continueremo a parlare della terra splendida d'Abruzzo. Ebbene, abbiamo semplicemente accennato al vino, ma ora faremo così una fermata a parlare di vino più approfonditamente, perché abbiamo con noi Tonino Verna, che è il presidente del Consorzio Vini d'Abruzzo, nonché presidente delle Cantine Tollo, una delle più grosse realtà produttive appunto dell'Abruzzo. Buongiorno Verna. Buongiorno dottore. Buongiorno. Come va? Bene, grazie. Senta Verna, ma il Montepulciano, in particolare il rosso, negli ultimi anni, e anche il Trebbiano d'Abruzzo, hanno avuto una grande crescita nella considerazione, diciamo, di chi assaggia continuamente il vino, dei gourmet, dei consumatori. Cos'è successo? Quali cambiamenti sono avvenuti negli ultimi anni di così importante? Beh, negli ultimi 6-7 anni, anche 10, si è avuto una piena consapevolezza da parte delle imprese agricole di primo livello, cioè i cosiddetti contadini, che per fare la qualità c'era bisogno di servirsi delle strutture tecniche e delle risorse umane e professionali atte a questa produzione e a questa coltivazione. Quindi negli ultimi 10 anni molte imprese, sia in forma associata che in forma privata, si sono dotati di risorse di professionisti, da agronomi ad enologi, che hanno fatto fare quel salto di qualità al prodotto, perché si sa che il vino buono parte dal vigneto e quindi si è rivoluzionato il metodo della produzione, dalla potatura alle concimazioni ai trattamenti. E poi negli ultimi anni, presa questa consapevolezza da parte dei produttori della qualità che in qualche modo ci siamo scrollati di dosso, quello che la regione Abruzzo è la regione serbatoio per altre imbottigliamenti, si è arrivati anche alla convinzione che una volta in possesso della qualità di questo prodotto bisognava comunicarlo, e quindi il consorzio si è adoperato sui due versanti, sui due binari ha lavorato. Prima facendo capire ai produttori che c'era bisogno di approvvigionarsi di professionalità, e poi ha cominciato quel discorso importante della comunicazione, e quindi oggi il Montepulciano, diciamo, investendo su questi due binari, acquista attrazione da parte del consumatore finale, ma anche da parte degli addetti ai lavori, che sono gli enotecari, i ristoratori, certo, e soprattutto anche quella stampa specializzata che nella sua criticità, nel suo ruolo di critica, ci ha fatto notare quali erano i passi in avanti e quali erano ancora le deficienze. Ecco, e noi le stiamo colmando attraverso questo rapporto. Diciamo che il Montepulciano in particolar modo si è scrollato di dosso, come posso dire, il discorso del vino sfuso, del discorso di poco prezzo, e soprattutto se anche si sta scrollando di dosso questo nome, perché molti ancora consumatori, ma anche molti diciamo che si occupano di vino, confondono il borgo toscano, bellissimo borgo toscano, Montepulciano, con il Montepulciano d'Abruzzo. Addirittura molti pensano che il vino Montepulciano prodotto appunto in Toscana, in quel del borgo di Montepulciano, sia un vitigno Montepulciano d'Abruzzo, in realtà è semplicemente un sangiovese. Quindi diciamo che anche questo è stato problema, e piano piano si sta scrollando addosso. Ma rimanga con noi, perché ora voglio fare una leggera deviazione a parlare di prodotti, perché prodotti sono importanti. Lei ha parlato di territorio, noi stiamo facendo un viaggio, quindi dobbiamo anche così portare alla ribalta per i nostri viaggiatori alcune scoperte. Allora vorrei parlare di Ventricina con un produttore che è Michele Piccirilli, però di Ventricina Vastese, perché attenzione, esiste in così pochi chilometri una Ventricina del Vastese e una Ventricina Teramana. Buongiorno a Piccirilli. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, ma questa Ventricina del Vastese cos'ha di così diverso da quella del Teramano? Ma sono due prodotti, come diceva lei, che sono totalmente diversi. Anche se hanno... è una Ventricina che si spalma sul pane, e i quantitativi di grasso sono molti, molto importanti. Invece la Ventricina del Vastese ha come caratteristica quella della... È un salume dove viene aggiunto polvere di peperone, e questo lo rende differente da tutti gli altri salumi, da quello che può essere anche dei salumi calabresi, perché poi i pezzi di carne vengono tagliati molto grandi, parliamo di 2-3 centimetri, anche 4-5, impastati con polvere di peperone, che non è più una spezia ma un ingrediente, sale e insaccata, semplice. La ricetta è semplice, però poi lo svolgimento è un po' complicato. Senta Piccirilli, ma con quale vino viene abbinata normalmente nelle famiglie la Ventricina Vastese? Con Montepulciano sicuramente. Ah, quindi con De Montepulciano. Sì. Bene, rimanga con noi, perché questo viaggio continua, abbiamo sentito il vino, abbiamo sentito la Ventricina, ma ora andiamo, come posso dire, da quello che è un po' quello che ha trainato la grande tradizione gastronomica del territorio. Andiamo da Nico Romito, ristorante Reale a Casadonna. Buongiorno Nico. Buongiorno. Ciao. Nico, tu hai avuto, per così dire, il merito di portare alla ribalta molti prodotti importanti abruzzesi che erano un po' sconosciuti al grande pubblico, ma diciamo che questi giacimenti, ce ne sono altri, magari ancora più nascosti? Ce ne fai scoprire qualcuno? I prodotti, il bacino gastronomico abruzzese è vastissimo. prodotti interessanti. Noi non abbiamo, secondo me, ci abbiamo tanti prodotti, tra virgolette, che si conoscono, che possono essere i ceci, i legumi, i formaggi, ma la particolarità è che sono ancora sconosciuti al grande pubblico. Io faccio esempio, noi abbiamo dei ceci di Navelli, che sono dei ceci piccolissimi, sono ceci molto piccoli, la particolarità è che la struttura esterna e la struttura interna hanno la stessa morbidezza, quindi è un cecio incredibile, perché di solito il cecio, quelli pure i ceci molto grandi, la parte esterna dà sempre molto fastidio perché è spessa, invece questi ceci non hanno questo spessore esterno, e quindi quando cucino questi ceci diventa molto armonico al palato, ma una semplice zuppa di ceci, la particolarità è che sono sempre ceci ma hanno questa caratteristica. E tu che piatto ci fai con questi ceci? Ma io faccio il periodo invernale una minestra di ceci, castagne e porcini, che è buonissima, mantenendo i porcini quasi crudi, i ceci che hanno questa struttura e le castagne arrostite prima e poi inserite dentro, quindi gli danno questa nota affumicata e anche croccante. Senti, se un viaggiatore in questi giorni, la prossima settimana, venisse nel tuo ristorante e ti chiedesse: fammi sentire un piatto dove c'è l'abruzzesità più profonda, cosa gli proporresti? Ma io in questo momento, se penso a un piatto, penso sicuramente a un piatto base tartufo nero e funghi. Comunque sembrerà strano, ma in questo momento abbiamo dei funghi molto molto buoni, ma soprattutto il tartufo nero di questo mese a me piace tantissimo, perché comunque ha tutte le note, non ha profumi, ma in bocca ha note di muschio e di bosco, ed è incredibile. Ecco, allora avvisiamo i nostri radioascoltatori, avete sentito tartufo nero e funghi in questo momento, chi va in Abruzzo, chi fa un viaggio enogastronomico in Abruzzo, questo deve tenere presente. Rimani con noi, Nico, perché voglio tornare un secondo a Tonino Verna. Tonino Verna, perché vorrei così ci parlasse di un vino che io trovo veramente eccellente in Abruzzo, ma forse poco conosciuto probabilmente, il Cerasuolo. Ecco, Verna, il Cerasuolo è veramente un vino che sta crescendo, secondo me, anche qualitativamente. Allora, il Cerasuolo è sicuramente un vino importante, perché parte da un vitigno importante. Il Cerasuolo d'Abruzzo, che negli ultimi 3 anni ha acquisito una DOC autonoma, è fatto al 100% col Montepulciano, e la maggior parte, o quasi tutti, i Cerasuoli vengono fatti con Montepulciani, vigneti di 25-30 anni, posizionati nelle colline più impervie del territorio abruzzese, in modo che la resa per ettaro è molto basso, quindi è un vino dove, stando su queste colline, c'è una grande escursione termica, e c'è grande corpo e grandi profumi, quindi è un vino che si abbina benissimo con tante pietanze, e la caratteristica di questo Cerasuolo è che principale è che parte dal vitigno importante Montepulciano. Nico, tu con cosa lo abbini volentieri il Cerasuolo? Con quale piatto? Mi piace tantissimo abbinarlo col pancotto, che è un piatto che racconta proprio l'Abruzzo, e l'Abruzzo pure di montagna, quindi un piatto fatto con del pane recuperato raffermo, delle verdure di campo, dell'uovo, quindi c'ha queste note dolci, ma amare, ma anche forti spesso, perché la verdura viene trattata con del peperoncino, quindi questa nota piccante. Un Montepulciano andrebbe a coprire un po' troppo, il Trebbiano o il Pecorino, Vitigna, Bacca Bianca, Abruzzesi, se rimarrebbero troppo delicati. Il Cerasuolo è il giusto compromesso tra la grande potenza, la grande forza, ma anche l'eleganza. Bene, io ringrazio Michele Piccirilli, il presidente Tonino Verna del Consorzio d'Abruzzo, ma voglio ricordare una cosa, che il Consorzio d'Abruzzo porta in giro per l'Italia una mostra straordinaria di un fotografo che si chiama, notissimo, Giacomelli, dove c'è una visione di un paese che si chiama Scanno, straordinario, dove sembra veramente che il tempo si sia fermato. Chi avesse la voglia e sicuramente anche così l'occasione per vedere questa mostra, devo dire che è veramente uno spaccato di quell'Abruzzo, settembre andiamo, secondo me è molto interessante. Grazie a Tonino Verna, Michele Piccirilli e a Nico Romito. Il gastronauta. Settembre andiamo, è tempo di scoprire questo territorio meraviglioso che è l'Abruzzo, aggiungo io, perché non solo abbiamo parlato di mare, abbiamo parlato di monti, ma ci sono anche dei borghi davvero davvero straordinari. Poi ne parleremo, perché andremo in uno di questi borghi a scoprire un bravo ristoratore che guardia grele, ma ce ne sono tantissimi altri, ma ce n'è uno anche, diciamo, dove andiamo ora, andiamo da un produttore di vino che non ha bisogno di grandi presentazioni, perché i suoi vini sono sempre al top, specialmente il suo Trebbiano. Andiamo a Loreto a Prutino, però oggi con Francesco Valentini. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide. Sarebbe, come posso dire, pleonastico parlare del suo vino, del suo Trebbiano e del suo Montepulciano. Lui produce anche un olio davvero straordinario, un olio d'oliva extravergine. Allora voglio chiedere, Francesco, ma l'Abruzzo offre anche oli davvero molto importanti, e quali sono le cultivar che, diciamo, più diffuse in questo vostro territorio? Sì, hai perfettamente ragione. Parlare di vino in questo periodo durante la vendemmia non è cosa piacevole sì. Per un produttore di vino. Preferisco senz'altro parlare di olio. E la nostra regione è una regione particolarmente vocata per la vite e quindi anche per l'olio, perché sono due, per l'olivo, perché sono due culture che vanno di pari passo. E a me risulta che in Abruzzo ci siano circa 24-25 cultivar autoctone, il che non è poco. Nella nostra zona, che nel territorio di Loreto a Prutino e anche vicino, ci sono un paio di paesi limitrofi qui, abbiamo una cultivar particolare che si chiama la Lauretana o Dritta di Loreto. È una cultivar presente solo in questo territorio ed è un olivo particolare. Perché? Perché è un olivo che ha una climatizzazione secolare, anzi direi millenaria, perché secondo una leggenda che poi dopo ha un fondo di verità, è un olivo che fu portato più di 2000 anni fa da alcune colonie greche che sbarcarono qui lungo le coste dell'Adriatico. Infatti andando in Grecia ho trovato la stessa identica cultivar, la stessa identica varietà. Il territorio di Loreto quindi ha questa cultivar ed è stato ai suoi tempi la prima DOP europea ed è il comune d'Italia con la più alta densità di olivi. Quindi ecco, immaginavo Loreto Prutino, tra l'altro io spendo io due parole sul tuo borgo perché lo trovo molto bello, ancora tenuto molto bene, quindi diciamo in questo percorso turistico, gastronomico, paesaggistico che io sto facendo e sto raccontando ai nostri radioascoltatori, vorrei inserire anche Loreto Prutino. Ma continuiamo questo viaggio, perché poi di prodotti io, cioè, diciamo col poco tempo non posso parlare di tutto. Ad esempio prima è stato citato il cece di Navelli, ma c'è lo zafferano di Navelli, c'è l'aglio rosso di Sulmona, le lenticchie di San Stefano Sessanio, il confetti di Sulmona, la mortadella di Campotosto, più conosciuta come coglioni di mulo. Questa forse meritava anche così sicuramente qualche approfondimento, vedremo di farlo. Ma c'è anche il pecorino di Farindola. Anche questo pecorino ha una sua peculiarità molto importante sul Caglio, che io voglio chiedere a Pietro Paolo Martinelli. Buongiorno Martinelli, che appunto è il produttore, è uno dei produttori di pecorino di Farindola. Buongiorno. Grazie per l'invito. Ci vuole spiegare la peculiarità di questo vostro formaggio che è unico in Italia? Esattamente Davide, come dici tu, è un formaggio unico non in Italia ma bensì nel mondo. Unico per la sua storia, per il suo territorio di produzione e per gli ingredienti. Appunto come dicevi tu, parlando di ingredienti, abbiamo latte ovino a crudo, caglio di suino, che questa è la particolarità più che spicca, in quanto è l'unico formaggio al mondo a utilizzare questo caglio, e sale. Questo caglio è prodotto naturalmente aziendalmente, in quanto il commercio non esiste, appunto essendo gli unici a utilizzarlo, ed è una tradizione che viene ormai tramandata di generazione in generazione, che risale all'epoca romana, dove per produrre questa sostanza capace di trasformare il latte in formaggio utilizziamo lo stomaco del maiale adulto, che con un particolare processo di macerazione, prima facciamo un'essiccazione, poi lo maceriamo con, mettendolo in grosse damigiane contenenti vino bianco e aggiungendo alcune spezie, e il tutto viene chiuso in maniera ermetica in modo che avvengano dei processi in condizioni di anaerobiosi, quindi in assenza di aria, per circa 3-4 mesi, al termine del quale apriremo la damigiana e la sostanza liquida all'interno di essa sarà capace di trasformare appunto il latte in formaggio. Senta Pietro Paolo, ma la gente chiede quando mangia, oppure chiede appunto stupita quando mangia il formaggio, ma che caglio c'è, che ne sento qualcosa di diverso, oppure diciamo che il consumatore di solito è distratto su queste cose? No, il consumatore è molto attento a queste particolarità. E spendo sempre due parole quando ho a che fare con la clientela, dicendo che il sapore unico che contraddistingue questo formaggio, che a differenza di altri pecorini ad alta stagionatura mantiene un carattere prevalentemente dolce a differenza del piccante di altri pecorini, oltre che per appunto l'utilizzo di questo caglio, è dovuto per quello che la pecora mangia al pascolo, in quanto nel disciplinare di produzione del pecorino di farindola vige una legge che le pecore devono pascolare esclusivamente sul versante orientale del Gran Sasso, quindi quello che si affaccia sul mare Adriatico, circoscritto nell'area vestina. Grazie, rimanga con noi Martinelli, ma ora voglio andare da un altro produttore di vino, voglio andare a Fattoria La Valentina da Sabatino di Properzio. Buongiorno Sabatino. Buongiorno a tutti. Abbiamo parlato di appunto i vini dell'Abruzzo, sempre rimanendo molto sulla tradizione. Ecco, tu hai fatto in passato degli esperimenti, quindi sei un po' un innovatore, credo, appunto tra i produttori abruzzesi. Ecco, quali sono stati i risultati di questi tentativi di innovazione che tu hai fatto? Guarda, noi, diciamo, essendo un'azienda, La Valentina, un'azienda abbastanza giovane, abbiamo subito iniziato a lavorare con uno spirito, tra virgolette, moderno, in realtà più che innovativo. Dal nostro punto di vista abbiamo cercato di sfruttare al meglio le differenze di terroir delle diverse zone su cui abbiamo piantato e ripiantato le vigne. Sostanzialmente abbiamo fatto due nuove tentativi. Abbiamo piantato un vigneto a filare ad alta densità con 7500 piante per ettaro di Montepulciano, in zona San Valentino Abruzzo Citeriore, la zona proprio ai piedi della Maiella, preparco della Maiella, 350 metri sul livello del mare, una zona che per noi era molto indicata per il filare invece che il classico tendone, perché molto ventilata. Mi rivolgevo anche tu anni fa, voi anni fa avete fatto un esperimento anche con un produttore veneto, se ben ricordo. Lì c'è un'altra interessante novità, perché lì noi praticamente coltiviamo un vigneto di Montepulciano insieme a Stefano Inama, l'azienda si chiama Binomio, sì, ecco, è una vigna di 40 anni, molto vecchia, piantata su una costa di collina abbastanza ripida, che negli anni, a causa del dilavamento del terreno, sta diventando sempre più franosa. Noi lì abbiamo praticamente sostituito il classico tendone abruzzese, la pergola abruzzese, con una pergola modificata, non avendo più un palo per pianta, ma sostanzialmente mettendo i tutori sulle piante e facendole poi appoggiare il capo a frutto su una sorta di pergola trentina. Quindi un sistema per far rimanere in vita una vigna molto vecchia con caratteristiche uniche e non perderle appunto spiantando e ripiantando con un nuovo sistema. Bene, io voglio tornare un secondo da Francesco Valentini per chiedergli questo, cioè l'Abruzzo diciamo che è sufficientemente vasto e diversificato e sicuramente i vini sono diversi da un territorio all'altro, è così Francesco? Certo, forse questo è il bello, questo è la diversità, ma di tutta Italia. ma anche ma proprio all'interno solo dell'Abruzzo c'è una diversità molto interessante e si capisce assaggiando vini dei vari lembi di territorio. Sì, è naturale perché il nostro è un territorio particolare, cioè noi abbiamo il mare, la collina e poi c'è anche la montagna e quindi ci sono situazioni pedologiche ma anche climatiche totalmente diverse. E questa diversità offre ovviamente una diversità anche qualitativa e quindi abbiamo di tutto, diciamo, in uno spazio abbastanza ristretto, però abbiamo varie diverse tipologie di prodotti di vino e sì, anche per ritornando al discorso di prima, anche per quanto riguarda l'olio. Ecco, io come dicevo prima, è una caratteristica particolarmente bella. A voi tre a turno vi voglio chiedere, ma secco, un borgo da visitare per i nostri radioascoltatori. Lo chiedo a Pietro Paolo Martinelli. Un borgo da visitare sicuramente è quello di Faringola. Sì, e poi se posso permettermi di aggiungerne un altro, sì, aggiungerei Città Sant'Angelo. Bene, Sabatino di Properzio. Io suggerisco, anch'io prendo lo spunto per suggerirne due. Ovviamente non posso che suggerire il comune di Spoltore, che è sulla prima collina che si incontra muovendosi dall'Adriatico verso l'interno dell'Abruzzo. E dopodiché un suggerimento sui generis, perché è un paese non legato alla produzione del vino, ma è un paese a cui sono molto affezionato, è Pesco Costanzo in provincia dell'Aquila. Francesco, dammi due borghi. Ma uno a caso è Loreto. Certo, l'ho detto io, l'avevo citato anch'io. L'antica Pinna, che è un'antica cittadina romana che è molto graziosa, è vicino a Loreto, a pochi chilometri. Bene, grazie a Valentini, grazie a Martinelli e grazie a Di Properzio. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio, appunto, settembre andiamo, è tempo di conoscere l'Abruzzo, il territorio abruzzese. E ora saliamo in un borgo che io amo molto, mi piace molto questo borgo, si chiama Guardiagrele ed è in provincia di Chieti. E andiamo, facciamo sosta in un posto, diciamo, uno dei posti doc della gastronomia e della ristorazione abruzzese. Ma prima di passare la parola all'amico Peppino Tinari, vorrei ricordare che a Guardiagrele c'è un prodotto davvero molto curioso che si chiamano le sise delle monache. Bene, è inutile che ve lo stia a spiegare cosa significa sise. È un dolce veramente incredibile da vedersi, perché immediatamente viene in mente appunto un qualcosa di femminile, di molto evidente. E in questo paese è molto caratterizzato questo prodotto. Ma io ora vado da Peppino Tinari, perché Peppino Tinari, appunto, come dico, è uno dei padri della tradizione e anche dell'innovazione, tradizione e innovazione della cucina appunto abruzzese. Buongiorno Peppino. Buongiorno Davide, come va? Bene, bene. Senti Peppino, volevo chiederti questo, in questo periodo consigliamo ai nostri radioascoltatori, ai nostri gastronauti, cosa mangiare, quali piatti mangiare che, diciamo, danno il senso della stagionalità e della cucina appunto abruzzese? Allora, attualmente stiamo servendo degli ovuli, dei porcini freschi come crudo con un parmigiano liquido e sono fantastici. E dopo abbiamo ancora le verdure del mercato, tipo ancora le zucchine, le melanzane, anche se comincia la stagione fredda, però abbiamo 23-24 gradi, quindi continuiamo l'estate e abbiamo l'autunno in montagna, perché grazie a Dio abbiamo la montagna alle spalle che ci fornisce i funghi con l'umidità solo della notte, la temperatura abbastanza alta, ce ne sono tanti. E poi il tartufo uncinato, quindi è finito quello estivo che sta in collina e stiamo attingendo il tartufo uncinato dalla nostra maiella intorno ai 1000 metri. Ecco, abbiamo Peppino, tre grandi prodotti eccezionali. Peppino, tu sei molto noto per le carni, cioè soprattutto in questo momento l'agnello è il momento giusto? Sì, l'agnello, anche se se ne trovano pochissimi, però ci stanno ancora, prima dell'inverno ci stanno ancora gli agnelli, ma soprattutto abbiamo ancora tantissimo, stiamo cominciando il maiale nero, che prima avevamo i maialini, ora stiamo già cominciando a consumare al ristorante il maiale nero intorno agli 80-100 kg e oggi a pranzo ho mangiato una bistecchina di maiale alla brace con la salsiccia di fegato e di carne, roba da brivido, veramente una carne croccante, eccezionale, saporita. con un po' di grasso giusto, anche se ho avuto l'infarto lo mangio volentieri perché è un grasso sano. Senti, sì, vorrei sorvolare su questo, su quanto mi hanno raccontato, perché lasciamo perdere, io ti auguro di riprenderti al più presto e ti ringrazio di essere intervenuto. Ma come chiudiamo questo pranzo? Con quale... Allora, come dicevi tu prima, le sise delle monache è un bel, per chiudere un pranzo è il top, è il massimo, quindi queste tre piccoli mondi di pan di Spagna soffice con una crema pasticcera e uno zucchero a velo fantastico sopra poggiato così. Senti, non ci possiamo mettere un Lacrima Christi perché sicuramente non fa parte del territorio. Dai. Però che vino ci mettiamo sopra? Dai, un bel Moscato Passito di Castiglione, che qui sembra nel nostro territorio abruzzese, va benissimo. Bene. Peppino, io ti lascio perché so che tu non sei in perfette condizioni, ti auguro di riprendere più presto. E ora abbiamo parlato prima del canestrato di Castel del Monte all'inizio, ora ce lo facciamo spiegare dal produttore, da Giulio Petronio. Buongiorno Petronio. Buongiorno signor Paolini. E allora cosa c'ha di particolare il canestrato di Castel del Monte? La particolarità del canestrato innanzitutto è un prodotto al latte crudo e da là deriva la sua particolarità, il pascolo, e l'essenza e arbore che abbiamo su Campo Imperatore si trasmettono col latte crudo sul formaggio, quindi mangiando un formaggio abbastanza stagionato si sente appunto un susseguirsi di sapori importanti, insomma. Importante, sì. Senta, e volevo chiederle cosa consiglia per mangiare così un pezzetto a fine pasto di canestrato? Quale vino ci possiamo mettere su questo canestrato? Come vini bisogna andare su un rosso, bisogna andare con il semistagionato, tre mesi di stagionatura, già il suo carattere, già si sente proprio il pecorino, si sente. Chi è amante del pecorino può andare pure su stagionature un po' più lunghe, sei mesi, un anno, abbiamo anche due anni di stagionatura, l'abbiamo, e bisogna andare su vini di carattere perché appunto se no rischiano di confondersi con di farsi sopraffare dal gusto del formaggio. Bene, la ringrazio, grazie al nostro produttore di questo canestrato di Castel del Monte che ci ha fatto venire fame come tutti gli altri prodotti. Però io ora voglio fare una chiosa finale a questa terra d'Abruzzo, perché è veramente molto significativo che ogni prodotto porti vicino il nome diciamo del paese, del borgo, e io credo che attraverso appunto una lettura geografica dei prodotti gastronomici si possa fare un viaggio veramente meraviglioso. Ho parlato prima delle mortadelle di Campotosto e devo anche spiegare perché ho detto, non ho detto io che si chiamano coglioni di mulo, ma in Abruzzo si chiamano così. Perché? Perché sono ovoidali e sono sempre legate a due, perché così vuole la tradizione. Lascio voi immaginare il riferimento. Bene, ma poi vi voglio parlare anche della sfogliatella di lama dei Peligni, anche qui c'è un'identificazione geografica, anche questo è un particolare dolce con una lunghissima storia. Ancora il salsicciotto frentano, appunto anche qui c'è una denominazione di territorio. E ancora un salsicciotto di Penna Piedimonte. Pensate, Penna Piedimonte. Bene, anche qui appunto un altro prodotto caratterizzante del territorio. Va bene, abbiamo detto prima anche la ventricina teramana e la ventricina del Vastese. Anche queste portano una definizione. Poi Farindola, Sulmona, Navelli, e San Stefano di Sessanio. Insomma, c'è veramente una simbiosi tra territorio e prodotto che è abbastanza unica ma molto interessante. Questo paese che dovrebbe molto di più sfruttare il turismo enogastronomico, qui avrebbe un campo sul quale poter assolutamente giocare e giocare molto bene, anche perché il paesaggio, come abbiamo sentito, è davvero fantastico, mare, monti, collina, insomma c'è veramente, veramente di tutto. Ma prima di chiudere vi voglio segnalare due eventi per questo weekend: il Festival di Franciacorta e a Contà di Castaldi ad Adro, appunto provincia di Brescia, tutto un weekend basato su bollicine e pizza, quindi un abbinamento che a me è molto molto caro, ne ho parlato più volte. Invece se andiamo a Lodi il 28-29 settembre, le forme del gusto in questa città appunto lombarda, dove esisterà una mostra Morcato e ci sono degli appuntamenti per approfondire su tantissimi prodotti anche della cena e dei laboratori del gusto. Quindi prima di chiudere volevo ringraziare Anita Panizza e Gianmarco Ferronato e a tutti vi auguro un bellissimo weekend, magari settembre andiamo. È tempo di scoprire il territorio abruzzese.